Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera ci spingiamo in un piccolo e magico borgo marchigiano, Montevidone, anzi per la precisione Montevidon Corrado in provincia di Fermo, e ci porta qui un libro singolare che intreccia la vita del giovane autore, io narrante del libro, con quella di un altro celebre figlio di quel borgo, ossia il grande pittore Osvaldo Licini, che visse tra il 1894 e il 1958 e passò praticamente tutta la sua vita, dopo una parentesi iniziale a Bologna e a Parigi, in quel piccolo paese. Il libro si intitola La Malassunta, l'autore è Pierfranco Brandimarte, è pubblicato da Giunti, 192 pagine, 14 euro. Quella di Lucini fu una strana parabola. Dal piccolo borgo, come dicevo prima, si era allontanato giovanissimo per andare prima a Bologna, poi a Parigi, poi combatterà nella Grande Guerra che lo lasciò invalido. Alla fine di questa avventura torna a Montevidone, da dove non si sarebbe più mosso salvo sporadici viaggi e l'ultimo riconoscimento ufficiale alla Biennale di Venezia nel 1958. In occasione di un ritorno a Montevidone il protagonista scopre Licini e ne resta affascinato, e in questo libro troviamo la storia di questa scoperta attraverso le esperienze appunto del narratore, ma soprattutto la riscoperta di Licini condotta anche attraverso alcune immagini che troviamo nel libro. Sentiamo allora dall'autore i particolari di questo viaggio intorno a Licini. Buonasera a Pierfranco Brandimarte. Buonasera. Pierfranco Brandimarte, lei nel suo libro fa dire al protagonista, al narratore, che ha scoperto Licini senza averne mai praticamente sentito parlare prima. Come nasce questa fascinazione per il grande Osvaldo Licini? Questa fascinazione nasce, come ho tentato di ricostruire nel libro, in maniera verisimile, ho tentato di ricostruire come è andata esattamente, appunto in maniera casuale. È successo tutto per caso, mi sono semplicemente perso in macchina, come qualche volta mi capita, e mi sono trovato in questo paesino dell'entroterra marchigiano sotto i Monti Sibillini, e lì ho visto delle opere del pittore perché c'era questa sala che era allestita per una mostra. Ho conosciuto delle persone che mi hanno raccontato di lui con molto affetto, e anche così come raccontassero di un personaggio bizzarro del loro paese, ed è così che, prendendolo inizialmente come se fosse una specie di caratteristico personaggio di paese, sono passato a considerarlo una specie di enigma, e è andata così. E ha raccontato la vita di Licini. Nei primi anni di Licini una presenza importante fu quella di Giorgio Morandi. Lei scrive che Morandi e Licini erano diversi come due stati della stessa materia, il solido e il gas. In che senso? Questa è una domanda difficile, cercherò di fare il possibile. Nel senso che in qualche modo lo sguardo dei due artisti è come se si appuntasse su una materia molto simile, o andasse, seguisse almeno per un breve tratto la stessa strada. Dopodiché il carattere, anche per come io ho tentato di risentirle queste due anime in qualche modo, aveva a che fare con uno stato dall'altra, dalla parte di Licini, di eccitazione, di essere agguerrito, di essere in qualche modo qualcuno che si slancia, oltre il conosciuto, oltre le terre conosciute, quindi qualcuno che tenta di raggiungere, per così dire, un cielo, mentre dall'altra parte Morandi precipita nel reale. È come se di fronte all'ovvio, alla faccia dell'ovvio, quindi della materia, quindi del solido, trovasse il suo abisso. Quindi entrambi hanno una specie di caduta, di incantamento, l'uno verso un'altezza, diciamo semplicemente, l'altro invece, quindi verso una specie di atmosfera gassosa, l'altro verso invece una dimensione più dura, ma comunque sia sfuggente. A un certo punto lei fa dire a Morandi: avevamo il sentimento giusto, dovevamo cambiare le cose. Il plurale si riferisce naturalmente anche a Lucini. Poi sembra che Morandi si ritragga un pochino da questa eccitazione. Beh sì, in questa specie di conversazione fantasmatica in cui vediamo parlare Morandi dà voce un po' a quello che secondo me era il periodo, quindi era ciò che veniva richiesto a quella specie di generazione artistica che aveva molti contatti con il futurismo e che sentiva questo vento rampante, e quindi questa atmosfera di rivoluzione estetica e poi anche politica. E quindi Morandi dà voce a quello che poteva essere il suo dintorno nel 13, nel 12, nel 10, nel periodo degli studi. lui non è che ne ha risentito particolarmente, è stato futurista, ha fatto un breve pezzo di strada con quella corrente, ma poi non l'ha seguita fino in fondo, è andato verso una direzione personale, così anche Licini. Ecco, Licini lei poi esamina nel corso del libro varie opere, vari periodi, e per esempio affronta il soggetto del bilico, che mette in collegamento con il trabocco, quegli attrezzi per pescare che si usano appunto su quella costiera. Che cosa rappresenta questo parallelo? Beh, rappresenta una sorta di bellezza effimera, rappresenta quel tipo di domande che ci si fanno di fronte a qualcosa che sta in piedi o che ci si palesa agli occhi, ma non riusciamo a capire esattamente come fa a mantenersi, a tenersi, ad essere lì di fronte a noi, a non cadere. Quindi tutte quelle opere, quelle costruzioni che, anche se dotate di un'utilità, perché i trabocchi della costa abruzzese, della costa di San Vito fino a scendere giù verso il Gargano, che sono qui quasi dal 1500, sono delle macchine che servivano per la pesca di paranza, per la pesca di costa, ma sono costruite come, non so se posso dire, come quel gioco dei bastoncini cinesi che vengono lanciati come lo Shanghai e rimangono alcune costruzioni in equilibrio, così pensili, e sembrano costruiti in quel modo, ma in realtà sotto c'è un'ingegneria. E così le costruzioni pittoriche e le immaginazioni pittoriche di Licini sembrano essere proiettate verso un grande spazio incomprensibile, però hanno sotto una sorta di scienza, di disciplina della forma, e aprono a questo tipo di associazioni imprevedibili anche per me, che sono successe, che sono accadute andando dietro questo tipo di scia, dietro le opere che ha lasciato questo pittore. E commentando le pitture degli anni 50, le pitture astratte, lei scrive che queste pitture appaiono come istruzioni balistiche, ingegnerie da ripassare con gli occhi prima di applicare l'esca e aspettare la preda, e aggiunge: i quadri astratti dipinti da Licini fino a quasi gli anni 50 sono mappe, rotte, registrazioni d'avvistamento. Insomma, fa quasi un paragone fra il pittore, l'artista e il cacciatore. Qual era la preda di Licini? Beh, la cosa curiosa, che poi penso nell'attività artistica in generale, sia quella di dare la caccia a qualcosa che si sente respirare, si sente grufolare da qualche parte, si sente vibrare, si sente come presenza, ma non si ha ancora la forma, non si ha ancora l'identità di questa preda, di questo animale che fugge, che scappa. Quindi si dà la caccia a qualcosa che si sa esistere o che si spera che esista, ma non lo si è mai visti, non si ha una fotografia segnaletica, e quindi si caccia al buio, si caccia, ed è una sensazione meravigliosa. E però si devono creare delle traiettorie, delle strategie, dei metodi per far abboccare questo qualcosa di impalpabile e che comunque deve rimanere impigliato da qualche parte per poter realizzare, per poter soddisfare questa fatica. Lei che idea si è fatto? Perché Licini a un certo punto improvvisamente decide di tornare da Parigi, al centro del mondo artistico di allora, in questo sperduto borgo delle Marche? Ma credo che qui c'entri quello che si può chiamare amore, innamoramento o forse anche la necessità. Non so esattamente, mi sono fatto un'idea che va verso questa Licini, un pittore, un artista che a un certo punto si innamora di questa bella ragazza, artista anche lei, e decide di passare la vita con lei nel luogo che lo legava a livello poetico, che gli faceva pensare a un avvenire di ricerca artistica e nello stesso tempo di dipendenza, perché aveva questa casa lasciata dagli avi dove non abitava più nessuno, in questo entroterra marchigiano, e quindi era una sorta di eremo che poteva avergli fatto immaginare questa dimensione chiusa della ricerca, del silenzio, della fantasticazione, qualche cosa che in una città dentro una convulsione forse non si riesce ad afferrare in pieno. E dopo anni di vita dentro varie convulsioni, compresa quella della prima guerra, compresi gli anni bolognesi e gli anni fiorentini a studiare, poi la Parigi dei grandi artisti, penso che lui abbia voluto raccogliersi, abbia voluto non più copiare, non più stare dentro determinate linee e segni, ma trovare il suo disegno e quindi guardarselo e ripensarselo senza influenze di quel tipo. Il titolo del suo libro, La Malassunta, si richiama a uno dei grandi soggetti di Licini, soprattutto quello degli ultimi anni, titolo per il quale sono state esposte varie interpretazioni, molte fanno riferimento alla luna, lei fa riferimento, fa da altre definizioni di questo Malassunta, la definisce l'elmo di un guerriero senza corpo, con rostro e pinna sul cimiero, un pesce cieco degli abissi che attira le prede con antenne luminose, eccetera eccetera eccetera. Insomma, in conclusione, che cosa rappresenta la Malassunta nell'opera di Licini? Ho dovuto, per avvicinarmi a quello che poteva essere il significato di questa figura, o almeno per me, nel rapporto con me, ci ho messo diverso tempo e non saprei ridirlo senza riattraversare o senza fare quel percorso che sta nelle pagine del libro. Ma quello che mi viene da dire è che la sensazione che ho provato da subito di fronte a quest'opera è quella di un'essenza, di un simbolo metamorfico, e quindi quell'idea di aver finalmente trovato la similitudine giusta per fermarlo, per definirlo, perché l'uomo ha bisogno di questi appigli, dura poco, perché poi, per come è fatta, per come la vediamo, prende un'altra forma, e allora bisogna inseguirla da un'altra parte. Questa specie di scivolamento continuo, questa specie di continuo mescolarsi è il fascino più grande di questa serie di opere, che vogliono richiamare in qualche modo una specie di divinità misteriosa, una specie di figura femminile, lunare, sì, una specie di contrario della Vergine Maria, è così paradossale, ma nello stesso tempo unire l'idea del divino misterioso che nei secoli ha albergato nell'animo umano e che poi assume varie forme negli anni, nei secoli, forme non del tutto umane, forme cangianti, e quindi questa è una forma cangiante, è la rappresentazione disciplinata in immagine di quello che è un enigma, di quello che è un mistero. Grazie a Pierfranco Brandimarte, autore della Malassunta. Buona serata. Grazie a voi. Un artista moderno che nel libro non viene citato come granché ammirato da Licini fu Mario Sironi, in realtà un grande artista, di cui esce adesso la biografia che ha curato Elena Pontiggia. Il libro si intitola appunto Mario Sironi, la grandezza dell'arte e le tragedie della storia, pubblicato da Joan e Levi, 304 pagine, 28 euro. Qui troviamo la vita e la carriera del grande pittore, che ebbe una formazione futurista tra Milano e Roma per passare poi definitivamente nella città lombarda, dove trascorse anche degli anni veramente difficili. Ma ben presto diventò un protagonista dell'arte del Novecento e dell'arte del fascismo. Sironi era certamente fascista, ma qui l'autrice ci spiega di il suo sentimento era per un fascismo sociale, al quale corrisponde la sua conversione proprio all'affresco, che lo ha poi reso famoso per tante opere, diffuse in tante opere pubbliche, da tribunali a università in tutta Italia. E spiega infatti Pontiggia che l'affresco non era solo una questione di stile, di contenuti, di mestiere, ma aveva in Sironi una dimensione sociale, perché con l'affresco Sironi sferra un attacco mortale contro il sistema della pittura moderna impostato su mostre e mercato. Tra l'altro, aggiunge l'autrice, Sironi, come dicevamo, fu sì fascista, ma fu perseguitato molto di più di altri autori che come lui erano fascisti, ma che passarono abbastanza indenni poi nel periodo successivo al regime, per esempio Terragni, Rosai o Soffici, che non erano appunto meno fascisti di lui. Insomma, un artista tormentato, colpito anche da grandi disgrazie familiari, ma potente e originale, protagonista di un'ulteriore svolta sulfurea della vita, che Pontiggia così descrive. Accade insomma un mutamento radicale nella pittura di Sironi. Nella sua stagione novecentista aveva rappresentato un'immagine dell'uomo grave ma potente. Una famiglia di architetti, costruttori, lavoratori dediti a un compito faticoso ma solenne. Una geografia di città dolorose ma imponenti, animate da una dimessa grandiosità. Invece, dalla metà degli anni 40, dipinge uomini murati nella pietra, sipari di rocce impenetrabili, sagome immobilizzate. Al volitivo «tu devi», l'imperativo categorico cui obbedivano le figure precedenti, si sostituisce un amaro «tu non puoi». L'uomo, sembra dire Sironi, non ha una vera possibilità di decisione. Il suo raggio d'azione è limitato e non può cambiare il mondo. Un copione già scritto attende da millenni di essere recitato e nessuno può modificare la propria parte. Concludiamo questa prima parte con un sommo artista del Novecento, Henri Matisse, di cui esce L'intervista perduta. È un'intervista con Pierre Curtion, che era uno dei maggiori critici d'arte del Novecento. Curtion gliel'aveva fatta questa intervista durante una lunga convalescenza nel 1941, quando l'artista aveva 72 anni. Però poi, giunto il momento della pubblicazione, Matisse non ne volle più sapere, e adesso ritorna questa intervista, che viene pubblicata dallo stesso editore che l'aveva commissionata, cioè Schirà. 264 pagine, 18 euro. Il libro è tradotto da Doriana Comerlati e curato da Serge Guilbault. Dicevo, una lunga intervista, perché si tratta di una serie di incontri nel corso dei quali Matisse si aprì con generosità, salvo poi appunto ritrarsi quando dovette approvare la pubblicazione, una pubblicazione che gli bloccò perché gli sembrava che proponesse dei temi troppo intimi. Il curatore, che ha ritrovato queste carte nell'archivio del Getty Research Institute di Los Angeles, spiega che secondo Matisse il pericolo di un libro di quel tipo era, da un lato, che potesse farlo sembrare vanitoso, superficiale, e dall'altro comunicare l'immagine di un artista arrogante, elitista. E qui Matisse, in effetti, in questa intervista parla di tutto, dalla nascita, alla carriera, alle sue concezioni dell'arte, ai rapporti con i propri maestri e con i contemporanei. E insomma, questo diventa così una lezione sull'arte del Novecento, anche con sorprendenti accenni a quella che è il mestiere del pittore. A un certo punto Matisse scrive: la pittura è un mezzo di comunicazione, un linguaggio, l'artista è un esibizionista, toglietegli gli spettatori e l'esibizionista se ne va con le mani in tasca. E aggiunge: il pubblico è la materia sulla quale lavori, ma precisa, il pubblico non è l'acquirente, il pubblico la materia sensibile nella quale speri di lasciare un segno. E adesso una breve interruzione, ci sentiamo fra qualche istante. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Proseguiamo con libri che hanno protagonisti l'arte e gli artisti, e cominciamo con un sommo come Michelangelo, il quale in opere come Il Giudizio Universale della Cappella Sistina ci lascia quasi una visione cinematografica di quel momento drammatico. E una lettura delle opere principali di Michelangelo è quella di uno studioso di cultura biblica ed ebraica, Piero Stefani. Si intitola La Bibbia di Michelangelo, è pubblicato da Claudiana Emi, 96 pagine, 9,50 euro. Questa è una chiave originale e singolare per avvicinarci ai grandi capolavori di Michelangelo, di cui siamo condotti a cogliere il significato. E si parla per esempio appunto della Cappella Sistina, e qui Stefani parla di un definitivo congedo dalla tradizione iconografica precedente a Michelangelo, una tradizione che aveva dominato tutta l'arte occidentale, perché qui nella Cappella Sistina è proprio il padre nella volta che appare, il padre che fino allora era rimasto quasi invisibile. Il padre diventa protagonista a partire da quella svolta, scrive l'autore. Per l'immaginario occidentale è divenuto quasi impossibile pensare al creatore con le fattezze del figlio. E si parla anche delle pietà, compresa l'ultima, la famosa pietà Rondanini, che da pochi mesi è stata spostata in una nuova collocazione al Castello Sforzesco di Milano. Sentiamo un brano di questo libro che riguarda proprio quest'opera. Nella pietà, la madre, che dovrebbe avere la funzione di sorreggere il figlio, appare come se venisse a propria volta da lui sorretta. Anche sotto l'aspetto visivo, e non solo in relazione a quello spirituale, la statua comunica perciò la capacità di Gesù di sostenere la madre e con lei tutti i fedeli. Ciò è reso possibile in virtù della sua morte, che è passaggio, Pasqua e non già fine di tutto. Nella scultura è racchiuso anche un secondo simoro costituito dall'incontro tra lo slancio verticale e la curvatura verso il basso della parte superiore dei due corpi di Maria e di Gesù. La madre è più alta del figlio perché i suoi piedi poggiano su uno scalino di roccia, mentre Gesù sembra, specie in virtù delle gambe lievemente incurvate, scivolare a poco verso il basso. Eppure nel contempo è Maria ad apparire come sorretta e portata da Gesù. La madre si appoggia sul figlio, che pure è rappresentato con le gambe che stanno cedendo. In realtà, se si osserva la statua di profilo, si coglie che la composizione a falce di luna ha due punti di forza. Uno è rappresentato dal gravare della donna sulle spalle di Gesù. L'altro è costituito dalla strana spinta verso l'alto esercitata dalle gambe di lui. Un altro sommo Michelangelo è Caravaggio, che troviamo nel libro di Milo Manara, il grande maestro del fumetto, che si cimenta appunto con la vita del grande artista, divisa in due volumi. È uscito il primo, La tavolozza e la spada, 64 pagine, 16,90 euro, è pubblicato da Panini, che offre anche un'edizione deluxe in edizione limitata a 1000 esemplari, che costa 49 euro. Manara dipinge, racconta e lo fa, come nota Claudio Strinati, un grande studioso proprio del Caravaggio, con grande rispetto della testimonianza delle fonti e della verità sostanziale di quella vicenda. Una vicenda raccontata con le immagini, straordinarie per la capacità di ricostruire l'ambiente del Caravaggio e i suoi capolavori. E a questo punto il confettino. Caravaggio troviamo nel libro Mi chiamavano Caravaggio di Maria Noella Sigberti, illustrato da Celina Elmi, pubblicato da Federighi, 60 pagine. Ieri è iniziato il campionato di calcio e allora vi segnalo qualche titolo di questa materia. Innanzitutto una ricostruzione da parte di uno storico cronista sportivo, Mario Pennacchia, che ha pubblicato con Mursia 60 anni fra campioni, miti, intrighi e follie, 408 pagine, 17 euro. In questo libro si parla innanzitutto di come è cambiata la professione del giornalista sportivo e degli appuntamenti più importanti che hanno segnato la storia dello sport, in particolare del calcio italiano, uno sport e un calcio di cui Pennacchia mette in luce anche molte miserie, e se non addirittura certe autentiche indecenze come le scommesse clandestine. Poi si parla dei campionati del mondo e naturalmente di tanti tantissimi campioni che hanno entusiasmato tante generazioni di tifosi. Una storia sociale della Coppa del Mondo di calcio invece è Sogno Mundial di Fabrizio Prisco, pubblicato da Area Blu, 300 pagine, 12 euro, che ricostruisce mondial per mondiale i vari campionati del mondo a partire da quello dell'Uruguay degli anni 30 fino all'ultimo che si è svolto in Brasile. Per ogni mondiale troviamo una sintetica storia con i richiami ai grandi eroi di quelle prove, non soltanto calciatori ma anche allenatori, scrittori e giornalisti che hanno fatto sognare tanti appassionati. Da quei tempi romantici il calcio è diventato soprattutto un business e su questo aspetto insistono due libri. Il primo è quello di Gioacchino Roberto Di Maio, giornalista, che si intitola L'economia del calcio, una prospettiva comparata Italia-Inghilterra, pubblicata da Tabula Fati, 230 pagine, 15 euro. Quello britannico è un caso esemplare rispetto alle crisi di tante società italiane e qui in questo libro vengono descritte le diverse politiche che sono state seguite per il calcio in Gran Bretagna e in Italia, il passaggio al concetto di azienda calcio, l'utilità delle attività commerciali, il marketing e infine appunto la grande differenza tra la situazione inglese e quella italiana, che fa risaltare tutti i ritardi del calcio italiano per certi aspetti a livelli, dice l'autore, addirittura preistorici. L'altro libro è Goal Economy di Marco Bellinazzo, il sottotitolo è Come la finanza globale ha trasformato il calcio, pubblicato da Baldini e Castoldi, 568 pagine, 19 euro. Bellinazzo ben lo conoscono gli amici di questa radio e egli scrive nelle prime pagine del suo libro che il calcio è alle prese in Italia con la terza rivoluzione industriale, equiparabile a quella innescata dall'impegno massiccio dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'informatica, del sistema produttivo. Insomma, una mutazione storica che è determinata soprattutto appunto dalla esasperata finanziarizzazione, scrive Bellinazzo, e dalla colonizzazione geografica di nuovi mercati. Esauritasi la moda della quotazione in borsa dei club, si assiste infatti alla comparsa di società e fondi di investimento privato. Conseguenza di questa finanziarizzazione, spiega l'autore, la diffusione planetaria del calcio. Insomma, anche Bellinazzo sottolinea i ritardi del calcio italiano, che scrive è rimasto ai margini delle recenti evoluzioni internazionali, che certo non gradiscono le miopie e campanilismi che determinano alla litigiosità tra i vari presidenti dei club. E qui nel libro sono descritti i principali campionati che caratterizzano, che dominano la scena mondiale per l'Italia, e l'analisi è attenta a un fenomeno, quello del proliferare delle squadre, ai disastri finanziari, agli intrecci con le banche, ai fallimenti delle squadre, agli arrivi di cosiddetti o autentici cavalieri bianchi stranieri. E si parla anche di un tema molto attuale in queste settimane a Milano, quello dei nuovi stadi, che sono diventati degli strumenti indispensabili, come dimostra proprio il caso inglese di cui abbiamo parlato poco fa, per assicurare redditività e profitto alle società calcistiche. E si conclude il libro con l'invito a introdurre prospettive più coraggiose, come quella avanzata in Gran Bretagna dai laburisti, di riconoscere alle tifoserie potere anche di partecipazione finanziaria, di governance, oltre che la possibilità, di cui si comincia adesso a parlare negli Stati Uniti, di favorire la presenza dei tifosi anche nel capitale delle squadre attraverso il crowdfunding per l'acquisto dei giocatori. Penultimi arrivi. Attenzione, la sigla non è sbagliata, penultimi arrivi, perché vi segnalo alcuni libri che non ho avuto modo e tempo di segnalarvi nella passata stagione, ma che forse meritano di essere letti prima che arrivino le novità dell'autunno. E allora, di Emmanuel Carrer, l'autore di Limonov, vi segnalo Il Regno, pubblicato da Delphi, 428 pagine, 22 euro, tradotto da Francesco Bergamasco. Qui Carrer cambia genere e, ricordando gli anni di intensa fede religiosa vissuti in passato, ci dà una lettura molto singolare, personale, in certi punti anche abbastanza dissacratoria, ma sempre stimolante, del Nuovo Testamento, dei primi anni della Chiesa, delle figure di San Pietro e di San Paolo. Un autore americano che vi avevo segnalato con grande calore è Wendell Berry, l'anziano scrittore, agricoltore, attivista ecologica, autore di Jaber Crow, di cui avevamo parlato l'anno scorso. Adesso esce una nuova puntata della saga ambientata in un fittizio ma americanissimo Port Williams, si intitola Anna Carter, è pubblicata sempre dall'Indau, 284 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Vincenzo Perna. Un programma che forse in molti condividiamo è il titolo di Karl Adelhold, che è uno storico francese, La strage degli imbecilli, è pubblicato da Fazzi, 322 pagine, 16 euro, tradotto da Federica Angelini. Questo non è un'istigazione agli omicidi seriali, anche se il protagonista non scherza. Comincia con l'ammazzare un gattino, poi in un crescendo cani, portinai, appassionati di bricolage e altre insopportabili categorie, fino a toccare il rispettabile numero di 140 persone, tutte inesorabilmente imbecilli. Il libro postumo di uno scrittore italiano che ci ha lasciato a fine 2014, cioè Giampaolo Rugarli, è uscito pochi mesi fa, è Manuale di solitudine, pubblicato da Marsilio, 230 pagine, 17,50 euro. Qui troviamo una serie di storie e di decessi in un sinistro condominio dove appunto trionfa la solitudine. Continuiamo con due autori italiani. La prima è Gaia Servadio, che ripresenta un romanzo pubblicato nel 1967, Tanto gentile e tanto onesta, è pubblicato da Sonzogno, 366 pagine, 18 euro. Un libro, come ricorda nella postfazione Irene Bignardi, che è particolarmente divertente ed è uno dei migliori, forse, per capire, per cogliere quelli che sono stati gli straordinari cambiamenti che in quegli anni andavano maturando in tutto il mondo. Lo fa attraverso le vicende spesso esilaranti della protagonista, cioè di Melinda. E proprio per questa capacità di fotografare quell'epoca, il libro diventò un bestseller in tutto il mondo, dopo che in Italia era stato respinto da una dozzina di editori prima che si decidesse a pubblicarlo Feltrinelli. L'altro autore italiano è Francesco Piccolo, che dopo momenti di trascurabile felicità ci propone momenti di trascurabile infelicità, è pubblicato da Einaudi, 140 pagine, 13 euro. Qui troviamo una raccolta spesso brevissimi accenni, spesso degli autentici aforismi che fotografano implacabilmente i momenti meno riusciti della vita. C'è anche una riflessione attuale, una riflessione sull'estate. Secondo Piccolo, l'umanità si può catalogare in molti modi, ai quali si può aggiungere il seguente: quelli che non vedono l'ora che arrivi l'estate, quelli che non vedono l'ora che finisca l'estate. Le due specie umane, per Piccolo, divise secondo questo criterio, si differenziano per un sentimento del tempo elementare. La prima ritiene che l'estate finisca troppo presto, la seconda ritiene sostiene che l'estate non finisca mai, ma lui, piccolo, l'autore, si colloca tra coloro che non amano l'estate. Per quanto mi riguarda, spiega, passo l'estate a sorridere a tutti per mostrare soddisfazione, perché gli altri sono felici se tu sei felice in vacanza. Però nel mio intimo sogno che venga buio presto, ripasso nella mente tutta la varietà di bellissimi maglioni che posseggo, mi viene l'acquolina in bocca ripensando alle minestre, ai tortellini in brodo. Ironici e divertenti i racconti di Dorothy Parker, una scrittrice americana considerata tra le più intelligenti e scintillanti scrittrici della sua generazione, visse tra il 1893 e il 1967. Questa raccolta si intitola Dal diario di una signora di New York, è pubblicato da Storia, 134 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Chiara Libero. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.